Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata il bilancio di genere della regione, occupazione femminile e parità e ancora contrasto al bullismo e diritti dei detenuti. La Commissione per le Pari Opportunità ha esaminato i dati raccolti nell'ultimo bilancio di genere redatto dalla Giunta regionale, uno strumento previsto dalla legge quadro sulla parità. Sentiamo di cosa si tratta dallo stesso Presidente della Commissione, Federico Amico. Il bilancio di genere è uno strumento importantissimo per leggere come le politiche regionali si dispieghino nel corso del tempo in ottica appunto di genere, quindi una lettura integrata delle risorse che la regione mette a disposizione sul territorio, che hanno una capacità di intervenire trasversalmente in maniera diretta e indiretta su quelle che è la condizione femminile. Tutti quanti i dati, diciamo così, statistici riportano come le donne abbiano maggiormente subito alcuni effetti collaterali alla pandemia, non di carattere sanitario, ma chiaramente di carattere socio-economico. La quinta edizione del bilancio di genere presenta i dati riferiti al 2020. Il rapporto si focalizza in particolare su occupazione, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e violenza di genere, temi considerati strategici per lo sviluppo economico e sociale in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dal dibattito in commissione emerge un giudizio positivo sul lavoro svolto, ma anche sollecitazioni alla Giunta regionale da parte dei gruppi di opposizione per estendere le analisi ad altri ambiti che riguardano la condizione femminile. Ecco le osservazioni di Valentina Castaldini di Forza Italia. Ho chiesto alla Giunta di fare un passo in più. La donna non vive solo di lavoro, è solo uno degli aspetti di una vita molto complessa, a volte anche complicata, per cui moltissima attenzione alla salute, non solo in termini di vaccinazioni ma anche di screening, soprattutto per quanto riguardano i tumori, e poi le tante altre responsabilità che nella vita una donna ha: la cura delle persone anziane, la cura dei bambini, nuovi bisogni che nascono. Bisogna avere da oggi un quadro molto più complessivo, non solo il lavoro. Contestualizzare le osservazioni dentro ad un'area di osservazione più ampia come quella di un bilancio sociale è l'invito pervenuto da Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia e da Simone Pelloni della Lega. Sentiamoli. E secondo noi andrebbe ampliato in un vero e proprio bilancio sociale per far capire che i problemi di genere non si possono ridurre esclusivamente a un discorso di occupazione, e probabilmente servirebbe un più ampio bilancio sociale familiare che possa permettere a qualsiasi donna di avere la garanzia e la certezza di partire alla pari di un uomo. C'è il tema drammatico che appunto non solo c'è una differenza ovviamente fra uomo e donna dei salari e dal punto di vista occupazionale, ma abbiamo un peggioramento generale per tutti, e questo ci deve far preoccupare, questo deve fare Emilia Romagna, deve trovare delle soluzioni concrete in tempi brevi. Il bilancio di genere rende contazioni per un impegno finanziario di oltre 860 milioni di euro a favore di interventi e servizi riferiti direttamente e indirettamente alle donne. Ascoltiamo il commento di Marilena Pillati del Partito Democratico. Effettivamente si tratta di leggere con molta attenzione i risultati di questo preziosissimo rapporto, non tanto e non solo per cogliere quello che è accaduto, ma per cercare di riorientare al meglio le politiche della regione, proprio per contribuire a far sì che quegli obiettivi di riduzione del divario di genere siano davvero realizzati concretamente. E di donne e lavoro si è parlato anche in un incontro promosso dalla consigliera di parità regionale Sonia Albisi, un summit sull'occupazione femminile per fare il punto sulle opportunità offerte dal PNRR in un'ottica di parità di genere. Abbiamo raccolto le parole della presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti, intervenuta all'incontro. Le donne non devono più trovarsi di fronte alla scelta tra vita lavorativa e vita privata. Il sostegno nel welfare, nei servizi, nella possibilità di seguire la famiglia, i figli, il lavoro di cura deve andare di pari passo con le opportunità nel mercato del lavoro. Gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno fondamentali in tal senso, perché vanno ad intervenire proprio sul grande tema dei divari, delle diseguaglianze in ambito ambientale, sociale, economico, lavorativo. Le donne hanno pagato pesantemente gli effetti della pandemia, non solo dal punto di vista occupazionale. Ora con i fondi del piano presentato a Bruxelles si aprono nuove opportunità per promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, con l'obiettivo di un aumento del 4% entro il 2026. Anche le nuove disposizioni introdotte recentemente nella normativa contro le discriminazioni di genere rappresentano un ulteriore passo in avanti, come sottolinea la consigliera regionale di parità Sonia Alvisi. Legge 162 del 2021 è un'importante novità, è una pietra miliare perché ha portato modifiche importanti al codice delle pari opportunità, ampliando la nozione di discriminazione ed ha inserito la certificazione di genere che diventa obbligatoria per le aziende con sopra 50 dipendenti. Tutte queste nuove norme possono essere un'opportunità per un aumento dell'occupazione femminile e per un aumento del PIL del nostro paese. Passiamo ora alla Commissione Cultura, dove è approdato un progetto di legge proposto dalla Lega per il contrasto e la prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Ne abbiamo parlato con Valentina Stragliati, che ne è la promotrice. Chiediamo che vengano messe in campo azioni di supporto alle vittime di bullismo e cyberbullismo, programmi di recupero rivolti agli autori di reato, quindi ai bulli e ai cyberbulli, corsi di formazione da destinare a tutto il personale scolastico e anche programmi di supporto e intervento nei confronti delle famiglie. Recentemente l'Assemblea ha nominato un nuovo garante regionale dei detenuti, subentrato a Marcello Marighelli, giunto al termine del suo mandato nel dicembre scorso. Si tratta di Roberto Cavalieri, ex garante dei detenuti di Parma. Ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Il garante dei detenuti agisce per rimuovere tutti quelli che sono i meccanismi che comprimono, possono comprimere le libertà residue di una persona reclusa. Sull'altro piano, più un piano che coinvolge il territorio, di rendere più permeabile gli istituti penitenziari alle politiche regionali nell'ambito della cultura, formazione e lavoro, welfare e sanità. Tra le prime iniziative del suo mandato, il garante regionale ha sollecitato l'amministrazione penitenziaria a concedere ai detenuti di nazionalità ucraina telefonate straordinarie verso i congiunti nel loro paese martoriato dalla guerra e a sostenerne le spese qualora i detenuti siano indigenti. La richiesta è stata accolta dal provveditore regionale Gloria Manzelli, che si è attivata per sensibilizzare le direzioni degli istituti in regione. Concludiamo la nostra puntata con una segnalazione. La Regione Emilia-Romagna promuove una raccolta fondi per assistenza e aiuti umanitari ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Chiunque potrà effettuare un versamento indicando la causale Emergenza Ucraina sul conto corrente intestato all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. Codice IBAN e informazioni sono pubblicati sui siti della Regione e dell'Assemblea Legislativa. E dunque, per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.